Le lettere che scrivo a te sogli di carta, le scrivo per sognare e poi le brucerò. È inutile mandarle a te sogni di carta, lo so che nella vita mai ti bacerò. Lontano sei da me e nella realtà io forse non ti incontrerò. Guardando al tuo splendor nell'ombra solitario sta questo mio cuore. Le lettere che scrivo a te sogni di carta, le scrivo per sognare poi le brucerò. Le lettere che scrivo a te sogni di carta, le scrivo per sognare e poi le brucerò. È inutile mandarle a te sogni di carta, lo so che nella vita mai ti bacerò. Lontano sei da me e nella realtà io forse non ti incontrerò. Guardando il tuo splendore nell'ombra solitario sta questo mio cuore. Le lettere che scrivo a te sogni di carta, le scrivo per sognare e poi le brucerò. So che nella vita mai ti bacerò.